inizio a mettere l'altra base e spostarmi tutto come era prima, Massimiliano, mi stringo, non posso affacciarmi alla finestra, non posso fare niente. Io dall'altra parte parlo del muro, non dalla parte della finestra. No. Dalla parte del muro ci sto pensando, però come ti ho detto, devo metterle quattro piedi nuovi, quattro, perché ne ha due soli, perché c'era la piastra che legava la L sotto, fatta da Giulio, e quindi i piedi ce ne hanno due soli. Devo trovare altri due piedi o uguali a questi, oppure devo metterli diversi, perché questi l'ultima volta che sono andato, che stavo cercando cosa, dove ci sono questi piedi qua, no? Non ce ne erano più uguali a questi in alluminio, capito? E io se non basta lasciare tutto così è già andato. Già va bene, se no magari poi cominci tu, ti stringi, ti riempi di nuovo tra la casa e baracchina, cose così, boh. Se sei ordinato così, lasciato così e va bene. Tornando al discorso, che stavi cercando un linearetto, se ti interessa c'è un BV 2001 a 200-250 euro, una cosa del genere. Potrebbe essere interessante, ne possiamo parlare, non in questo momento, però cerca di capire a me. Non ti preoccupare, io te l'ho detto perché l'ho visto in rete, là, tutto qua. No problem, ok, vai, riprendi, dai lui. Cara, io volevo provare a accendere il 48, ma è un casino adesso. A farlo girare un po' anche a lui, quella rete, è sempre lì parcheggiato. Cazzo, l'hai pigliato a me e te l'hai parcheggiato, la massa che te ne varia. Ma perché ancora ce l'hai? Quello là non se l'aveva preso. No, ce l'ho sempre qui il 48, e guarda qua non è uscito niente. No, ho toccato nulla. Io pensavo che tu quello lì l'avessi dato. No, ma mi tengo tutto, Massimiliano, mi sta dando fastidio intanto qui. L'ho acceso anche quando l'altro giorno, ho fatto scaldare un po', ho fatto fare un giro e poi ho riacceso questo ieri. E accendilo allora, che così lo voglio sentire, vabbè. Sei rimasto sempre così, là. Aspetta, ci metto un attimo. Ho fatto il controllo, aspetta un secondo che... Bene, Antu, bene. Aspetta un attimino, Clark, che mi sta chiamando Daniela, che è qua. Oh, allora, siamo tornati alla normalità, dai. Prova, ne ho fatto abbastanza, esci che rimettiamo il mio mostriciattolo. Tutto a posto sta andando qua, sì? Antu? Va bene, tu lascia tutto uscire, aspetta che mi metto gli occhiali, sto controllando il Mickey 10, a posto, a 1,5, processore scelto, tutto ok, dai. La fa gubba, Massimilia, lo so, però già sono belle anche quelle radioline, dai. No, dico, la fa gubba il microfono. Completamente un altro mondo, va. Sì, Antu, stai uscendo bene. Buono. Avanti, Daniel. Cava Rogero. Guarda come sta girando, Massimiliano. No, già gira bene, maledizione. Devi aumentare appena appena l'eco, ma un pelo. Aspetta, se mi ricordo qual è l'eco, questo è, aspetta. Guarda un po', Massimiliano. Hola, cambio. Va bene, Claudio, per te. Alla grande. Poi Massimiliano mi ci scende Mickey Ginn, perché l'avevo abbassato per il TRP2. È regolato bene, ma mi sembra di sì, 1,5, 1,8, non arriva a 2, dai. Dovrebbe essere a posto. Sì, gira bene con la radio, vedi? La giovata canta. Daniele, se non la usi, ritorna qua, A me non mi diverto con Massimiliano al 45. Che immagino l'amplificatore, buco la roba che sa radio, me. C'è un B300 che scherreggia forte con quella radio. E adesso vediamo, dai Claudio, perché poi restate proprio uno o l'altro, capito? Adesso sono un attimo incasinato di là. Non ti preoccupare, io ti ho detto se non lo usi, se lo devi usare usalo, però trattalo, capito? Perché ogni tanto l'accendevo, lo facevo andare, facevo due rullate con Massimiliano, capito? Quindi, siccome tu hai detto che lo devi vendere, se non lo vendi è meglio, però usalo, invertilo ogni tanto le radio, perché lasciarla ferma? Scusa, va benissimo quella, va bene, va bene. Signori Billy, 9:05, sono là, io c'ho fame. Quindi qua ho rimesso tutto a posto, vi saluto, vi stiro e vi ammiro, come dice il Capitano Ventosa, e ci sentiamo, se coincide più tardi, ma non penso, e se no a domani, ok? Quindi cambio per Massimiliano, ascolto i finali e poi chiudo. Lavori domani, Massi? Non lo so, claro, dipende dal tempo. Dipende dal tempo, se il tempo tiene così come usi, sì, beh, lavoro. Ma siccome ho visto che ha dato un paio di giorni di acqua temporale e roba del genere, ma non mi sono neanche affacciato per vedere com'è. Se non lavoro già sono qua, se lavoro dopo le 6 sono qua, ok? Dai, ciao Cla, buona cena, buon tutto, ci sentiamo, avanti, bombolo. Ehi, a Claudio, dai, buon proseguimento e buon tutto, poi noi ci sentiamo domani sera. Signor Radio, ciao Daniele, d'accordo, dai, domani sera quando hai terminato il QRL ci sentiamo e vedo queste cosette, ok? Beh, vi saluto che è pronta la cena, sono già le 9, ciao Massimiliano, ciao Antonio, ciao Daniele e tutti quelli che sono in ascolto, ciao ciao. Ciao ciao Cla. Francesco, di quel 48 infatti come ce li hai Danielo? Chiusi o aperti? Allora, questi va verso intorno ai 2 watt Massimiliano. È al minimo che c'è. Michele l'avevi ricollegato tu, giusto? No, Massimiliano, quello avevo staccato perché faceva quel problema del fischio. Ti ricordi, sentiva quel sibilo sotto. Ah, è vero, è vero, è vero. Sì, no, comunque già funge anche quella. Questa è la regolazione che vi ho lasciato tu. Da allora non l'ho più toccata. Questa è la radio di Daniele Motrice Pazza, questo era il suo 48. Quella là. No, l'87 è quello che è tranquillo, non esce più, no. Non penso che lo dia più quello. Guarda, già stavo vendendo questo, il 48 ne stavo già pentendo. Non lo vendo più, boh, basta, tanto so che poi lo vendo, ne ricompro un altro. Questo? Questo sta andando a 300. Anzi, lo stavo dando. Adesso non è periodo, Daniele. Adesso non è periodo, pochi soldi ci sono in giro. Ehi, c'è da dire anche quello, ma non ne do più Massimiliano, a parte ogni cosa. Non lo do. Fai bene, te ne dico tanto. Poi magari lo dai e magari poi te ne serve una macchina o magari uno di scorta ci vuole sempre, va. Adesso di 48 ne ho due, c'ho questo e quello originale, poi c'ho l'87 e con i baracchini basta. Non va bene, la voglia. Niente, io mi ha dato quell'antenna, quello del vicino di casa tua, quella Sirio, me l'ho messa a posto. Hai fatto bene, funziona, sì, a posto. Sì, sì, me l'ho rifatta completamente, diciamo nuova, capito? Era con i radiali tutti rotti, li ho tutta rimessa a posto. Dall'1:40 zero stazionario, non si muove l'ago, nel 45 c'è uno e appena non arriva 1:01. Caparroggio, buono, buono. Già va bene, Massimo. Siviglia. Riprendi bombolino. Io non sto usando quella adesso. Adesso lì c'ho la Mantova. Guarda, ti faccio sentire una cosa. Questa qui è la Mantova, tu. E questa qui è l'altra antenna, guarda. Questa è una Sirio 2008, quella con 8 radiali. E va bene, sì. Ne ho messo due. Questa è un metro e mezzo più bassa dell'altra, però, capito? Perché quella lì è sopra due pali, questa è sopra un palo, capito? Quindi è leggermente più bassa, ma comunque va bene anche questa, eh? Sempre una 5 ottavi. Allora, una è la Sirio, l'altra è la Mantova. Il che allora, questa qui che sto modulando adesso è la Sirio, che è un metro e mezzo più bassa della Mantova. Adesso ti faccio un passaggio con la Mantova, guarda. Questa qui è la Mantova, tu guarda, vedere, 1, 2, 3, prova. Ah, io fanno QRT, dai. Sì, io vado fermo QRX, va. Gava, gava. E tu, hai trovato differenza? Secondo me sarà fare un apparecchio di verso all'altro che è utilizzato. E beh, è un apparecchio di verso all'altro, sì. Quindi io non lo posso sapere, cioè non posso sapere quello che è questo. Sì, ma vanno a giocare a sacchene, antenne, attacchene, capito? Tutto lì. E vabbè, ma comunque il segnale di moto ha variato. No, no. Cosa tu? No, no, no, ma no. E allora già va bene. Chi è che ha detto a fare quel ricco? Ah, io sto niente alla radio, ciao, ma ci vediamo, buonasera. Ebbè, Franco Garifo. Ma c'è forte? Escono molto forte le Sirio come la penne. Sì, già lo so, già va bene. Ebbene, ho Franco Galifo, dove sei? A Sassari? E scappa, sto pilotando con una frustanera piccolina. Sto provando questo ala A48, come sta andando? Cambio. Ah, quello là? Scappa, com'è? Sì, è buono, va. Chi è Massimiliano? Franco California. Franco! E che, ciao bambino, l'ho sentito da tanti anni, ce la riascolta, scappa. Saluta in casa da parte mia, che altro c'è qua? Cambio. Buonasera, buonasera, ben sentito, cordialità. Comunque va bene Massimiliano. Sì, già va bene, dai. Andate, andate. Ma c'ha il doppio o senza doppio? No, c'ha il doppio, c'ha il doppio. E sto mettendo al minimo, se no qua me lo fanno che fare. Già va bene, già va bene. KK, voglia. E la posso ancora aumentare, sì. Guarda la foto, solo se la metà rotta se lo ci hanno fatto. Ora, cambio. Brava. No, boh, è strano, a volte mi arrivi in Santiago 5, 7, da voi te ne fai quasi a zero, boh. Perché lo sto abbassando io, la sto abbassando il PVR qua, capito? Non disturba. Vabbè, poi mandami una foto per vederlo. Oh, bravo, come le puliti un'antenna tipo la mia, più alta delle antenne TV, secondo me non disturba. Cosa tu? Si conviene mettere un'antenna tipo la mia. E a chi? A me? No, a Franco, California, da lì c'è un bel posto. Ah, ok, ok. Sì, ma se la metto a prova 1, 2, 3, 4, a prova radio, 1, 2, 3, cambio. Prova a fare così, cambio, e farlo andare l'eco. Cambia, senti qua, questa qui con la modulazione, cambio, ovvio. Chissà che l'ha fatto salvare. Ah, boh, non ne so, tu io. Ora. Se mai hai dato un microfono, gatto è meglio della radio. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, c Meglio va così, guarda un po' 1, 3, 4. Meglio, va bene, va. Avanti, Daniele. Valto mi ammazzendo. E chi è? Aspetta, devo spostare a te. No, sono passato all'altro perché era impossibile tenerlo acceso adesso. Ehi, che sentivi allora? E allora, non tantissimo, ma stavo iniziando a avere i problemi. E io diciamo sento a volte. Chissà quanto è bene, cazzo, è il 23, va bene, noi siamo ben vicini. Lo so, tu c'hai il problema perché sei vicino, noi siamo lontani, però se sei 48 fa quel problema di solito, dai. E va bene, siamo tu liscio del tutto, non sento più a nessuno. Questo invece è bello selettivo. Ma tu qua non ce l'hai, io. Ho Massimiliano. Io ce l'ho la stufa, ma che cosa li fai con no? Quando accendi la stufa, e poi fa troppo caldo, è un casino. Dai, basta pure la manetta, vedrai che ne ha più. Cava Roger, avanti, Franco. E adesso l'ho tolta Massimiliano, se no magari questa mi rompe le palle da sotto, capito? Kappa Kappa, anda bene. Nuovo, No, è tenuto la stessa. Guarda questo Massimiliano. Com'è? Sempre uguale? Prova. Guarda un po'. 1, 2, 3, 4 e 5. Cambio. Questo è un po' superiore, va. Però come radio il 48 è buono lo stesso, Ma sarebbe detto un anche in Freund. Ah, anche sciogare. Sì, ma la laterale, so, cazzo. Dai, adesso inizia noi. Sì, no, quel 48 è, va bene, niente da dire. Il problema è che prende colpi. Vabbè, cosa devi fare? Purtroppo il 48 sono così. Sono così e non c'è niente da fare. Piglia il gol per buco. Cavalava, i prendi Franco! Boh, Daniele, tutto a posto a casa, come stai? Tutti bene? Diciamo di sì, dai! Già stiamo, si tira avanti! Lo so che io ho perso tutti i numeri perché mi c'è sceso il telefono nel bagno. Cazzo allora! Ho dovuto buttare via perché non c'era più niente da fare. Tutto il capito. Sì, adesso Massimiliano l'ho tolto lei, l'ho spento completamente, capito? Io va bene, dai, adesso l'ho acceso io un po', dai. Hai te a bombolo. Positivo tutto Roger. Cazzo, io ti mando la tua radio, che pulsa va, bubu. Cominciamo a corrigere forte. Va bene, dai, io faccio il QRT che domani di mattina devo partire presto. Ok, dai, vi saluto tutti, una buona notte, ciao Daniele, sono pensato, mi raccomando. Tanti saluti di buco, ci vediamo, dai. Ok, ciao Massimiliano, ciao anche Antonio, ciao a tutti gli amici che sono in ascolto, e quelli che non sono in ascolto. Tutti salutati da parte mia, ciao, ce la riascolta quando rientra, ciao. Ciao Fra, dove vai? Giù domani? Kappa, sì Massimiliano, partiamo la mattina presto. Ok, allora buon viaggio, buon tutto, ci sentiamo, ciao. Avanti Daniele. Kappa Rogio, dai, ciao Fra, alle prossime, ya ci sentiamo poi, dai. A te, bombolo. Kappa, ciao Tore Franco, ce la risentiamo alle prossime. Ciao a tutti, buonanotte, ciao ciao. E anche io mi vado a fare i passaggini e poi mi sgancio. Se no un macello qua, va. Kappa Rogero, guarda adesso così, lasci lì, che c'è la tuffetta accesa. Signor Radio. Massimiliano, guardami la foto di quell'artiglio, che la voglio vedere. Cosa? Guardami su di quell'artiglio. Adesso ti mando una foto, va, te la mando a WhatsApp. Purtroppo sono due anni io ce li ho avute anche passato, ma funziona veramente. Kappa Rogero, poi Anto, ma domani se per caso non lavoro che piove o balle varie, ti chiamo, ci mettiamo d'accordo per a prendermi quella radiolina, ok? Ok, ho lasciato la telecamera a pranzo, l'ho lasciata. Sì, vabbè, tanto voi a pranzo rientrate a casa, no? Sì. Ah? Sì. Sì, ok, va. Al limite, poi già ti chiamo se in caso che non lavoro, va. Va bene, dai signori, io vi lascio e ci sentiamo alle prossime, va, ok? Ehi, Massimi, dai, anch'io chiudo, che qua è quasi pronto la carichetta, dai, che domani mattina non vuol girare, non va a corsa. Ridetevi, salutati tutti, ci sentiamo alle prossime. Ciao Massimiliano, ciao Bombolino, dai, rilancio a te per fare il finalino. Massimiliano, salutone anche a te, dai, ci vediamo domani, se ok. Cava, cava. Ciao Massimiliano. Ciao Daniele, un abbraccio forte, ci sentiamo e ci vediamo quando sarà, dai. Ciao anche a te Antonio, salutoni belli, a te e a tutta la tua famiglia. E ci sentiamo le prossime. Passo e chiudo, ciao ciao. Ciao. Me la mandi con la foto Massimiliano? E io adesso ti giro la foto. Sì, la voglio vedere. Ciao Daniele, dai, ci sentiamo. Ehi, ciao, salutoni circolari a tutti, dai, noi Bombolino ci vediamo domani mattina lì. Ok, ciao, ciao. Ciao, ciao.